Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Questa volta dobbiamo ringraziare Cristiano Valli per la regia, come tutte le altre volte voi tutti per la cortese attenzione. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Ci sentiamo.